La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori della 24. Questo venerdì 10 novembre 2017. Siamo alle 16.07 e 29 secondi. E oggi diamo un aggiornamento in questa puntata di quello che sta avvenendo. Innanzitutto, perché oggi ci sono novità, ci sono state ieri, ci sono oggi sulla Brexit. E quindi andiamo un secondo a capire cosa diavolo sta succedendo tra Londra e l'Unione Europea. E poi a fine trasmissione facciamo anche un approfondimento per capire nel frattempo. La Catalogna, anche che è praticamente sparita dai giornali, per capire che cosa sta avvenendo dopo che è scattato l'articolo 155 della Costituzione, gli arresti dei componenti della Generalitat, la diciamo così non troppo difendibile, anzi criticata universalmente, secondo me ha ragione, tra virgolette fuga di Puigdemont a Bruxelles, e per tentare di capire anche lì le cose come vanno. Ma la cosa fondamentale è quella invece della vicenda britannica, la vicenda britannica che ha avuto in questi giorni sviluppi di veramente ancora più singolari di quanto questa vicenda oramai non sia diventata singolare in sé per sé, visto che stiamo andando a celebrare l'anno e mezzo dal referendum e siamo, per così dire, ancora, come si dice a Roma, a caro amico nei negoziati. Cioè l'impressione è di un Regno Unito che continua a non avere ancora la minima idea di cosa proporre davvero in una trattativa che è molto complessa, perché questo lo avrete capito. Il problema non è solo, ma tanto per cominciare, si comincia di lì, dare un'idea della grandezza che Londra e il Regno Unito sono disposti a pagare per uscita rispetto alle richieste fatte dall'Unione Europea, ma poi le intese commerciali a cui mettere mano per Londra, che passano le intese commerciali mondiali attraverso l'Unione Europea e che, se esce senza accordo, dovrà ricostruirle da capo attraverso WTO e intese bilaterali. Pensate che la Svizzera, per esempio, ha centinaia di intese bilaterali con l'Unione Europea per tipi di prodotti e servizi. Quindi una cosa che esporrebbe, in assenza di un accordo, il Regno Unito a una botta micidiale dal punto di vista del commercio mondiale e della sua economia, ecco. E a questo però si aggiungono evidenti segni di crisi della leadership di Theresa May. Ieri ha perso un altro ministro, dopo il ministro della difesa. Il suo partito è in ebollizione perché capisce che tra le intemperanze del ministro degli esteri Boris Johnson, chi ha votato per il Remain e non per il Leave all'interno dello stesso partito conservatore, e le difficoltà sempre più evidenti della May, non si sa bene all'interno del suo partito se non fare scommesse su quanto dura ancora la May. Però il problema è che se convoca elezioni le vince Corbyn, che a propria volta dice, rispondendo ai giornalisti, che non direbbe che cosa voterebbe se ci fosse un nuovo referendum, perché anche lui è della linea che bisogna stare fedeli al referendum per l'uscita. Ma all'interno del suo partito è ancora più evidente la spaccatura tra chi la pensa così e chi invece non la pensa così. Quindi un grande, enorme problema che oggi ha avuto due sviluppi. Il primo è quello che ha visto il premier britannico ribadire, questa volta formalmente, ha detto: lo scriveremo nel repeal bill, cioè lo strumento che è all'esame parlamentare e che dovrebbe fissare le coordinate per il processo di uscita. Dice: lo scriveremo nella prima pagina, che noi usciamo comunque in ogni caso il 29 marzo 2019, cioè i due anni previsti dal trattato, dal momento in cui è stata richiesta l'attivazione dell'articolo 50 dell'uscita, ed era appunto la fine di marzo di quest'anno. E Theresa May ha detto: lo scriveremo nel primo articolo, che comunque il 29 di marzo alle ore 23, ha detto anche l'ora, il Regno Unito uscirà. In ogni modo uscirà. Allora, in ogni modo uscirà in una condizione nella quale lei non riesce a dire al Parlamento britannico se gli sottoporrà preventivamente le bozze di intesa con l'Unione Europea per un voto del Parlamento britannico oppure no, perché lei per prima non sa se si riuscirà ad arrivare a un'intesa. La risposta immediata, o quasi, fine mattinata, del negoziatore dell'Unione Europea Michel Barnier è stata durissima, perché ha detto: guardate che amici di Londra, dovreste saperlo, ma ve lo dico ufficialmente, o in 2 settimane, siamo a ultimatum temporali come vedete molto ristretti, in 2 settimane ci rispondete su quanto siete disposti a pagare per l'exit bill, cioè per il conto delle spese in questo periodo che comunque dovete sobbarcarvi in quanto membri, e la regolazione di tutte quelle pluriennali all'atto dell'uscita, oppure non inizia nessun negoziato commerciale. E guardate che la prossimo round di trattative bilaterali è nel marzo dell'anno prossimo, quindi significa che diventa improponibile l'idea di credere di poter fare tutto prima del marzo del 2019. Insomma, è una situazione che da fuori sembra enormemente complicata. E allora ci siamo detti, siccome la cosa ha un certo impatto, perché l'anno prossimo, lo ricordo a tutti, va a esaurimento il QE della BCE, bisogna vedere se riparte la gara dello spread nell'euroarea a cui l'Italia è esposta. Ieri la Commissione Europea ha detto all'Italia: guardate, voi non siete per niente in regola con nel rispetto delle regole di bilancio, di rientro del deficit, non solo non lo è la legge di bilancio a cui manca uno 0,2%, ma la nostra stima è che il vostro deficit strutturale per l'anno prossimo è comunque per il 2018 è comunque il 2%, quindi scende rispetto a 2,1 di poco o niente, sto parlando del deficit strutturale, e poi comunque il deficit strutturale, dice la Commissione Europea, risale al 2,4%, quindi siete proprio fuori linea di parecchio. E tutto questo mentre i partiti italiani si avvicinano a una campagna elettorale in cui tutti e tre i poli non riconoscono più le regole rientro graduale verso l'azzeramento del deficit strutturale. Quindi bisognerà vedere se noi non ci troviamo a dover sommare, dopo le prossime elezioni politiche, il rischio di essere diventati di nuovo un rischio di instabilità per noi e per l'euroarea, nel mentre in cui inizia non solo ad accendersi il conto alla rovescia per la mancanza proprio di tempo di un accordo tra Gran Bretagna e l'Unione Europea, e nel frattempo lo scudo della BCE che va a esaurimento. Un bel quadro, non vi pare? Però magari siamo pessimisti, e allora tentiamo di capire da chi più segue da vicino la vicenda britannica. Allora, iniziamo, abbiamo due ospiti in questa prima parte della trasmissione per spiegarci che cosa sta avvenendo in dettaglio. Cristina Marconi da Londra, giornalista freelance da Londra che scrive per diversi quotidiani, per Il Messaggero, per Il Foglio, e che ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio Cristina. Buon pomeriggio a voi, grazie mille. E poi un altro collega, fondatore del blog Fumo di Londra e autore con Stefano Basilico del libro Lady Brexit, Theresa May a Downing Street, che scrive per La Verità, Gabriele Carrer, grazie di essere con noi. Ciao Oscar e ciao anche Cristina. Allora Cristina, dacci il dettaglio, ministri che se ne vanno, la data, cosa vuol dire la faccenda della data, la risposta di Barnier, visto di là, ma insomma la May resta in sella o andrà a casa? Allora no, la May in realtà si sta addirittura rafforzando in questa situazione, perché praticamente in una situazione di confusione tale lei bene o male insomma si sta mostrando più forte e stabile di quello che prevedeva lei stessa di riuscire a trasmettere, diciamo. Quindi oggi ha detto due cose. La prima è questa data, quindi il 29 marzo 2019, sarà venerdì, il Big Ben suonerà alle 23 e il paese sarà fuori dalla UE. Non è una sorpresa, perché noi sappiamo che la lettera con cui si avviava il negoziato era stata inviata proprio il 29 marzo del 2017, e quindi diciamo, secondo me questa dichiarazione va un pochino inserita in quella serie di punti fermi che la May ama mettere in mancanza di dettagli, no? Perché comunque lei in questo suo anno e mezzo da premier è stata una donna da grandi proclami, grandi slogan, però quello che sorprende insomma è la povertà dell'avanzamento reale che c'è in questo negoziato con Bruxelles. E oggi forse la data più interessante non è questa del 2019, ma quella che gli ha dato Barnier, cioè 2 settimane. Noi 2 settimane e vogliamo una cifra, vogliamo degli avanzamenti sul punto più delicato di questa prima stazione della Via Crucis dei negoziati per l'uscita dalla UE, che sono insomma il divorce bill, no? Il conto, quanto ci date, che cosa vuol dire che non metterete nessun altro paese in difficoltà, che non creerete un buco nel bilancio. Allora, finora la May ha parlato di 20 miliardi di euro che non sono sufficienti, perché insomma sappiamo bene che le cifre da Bruxelles sono più intorno ai 60 miliardi. Però insomma ci dovrebbe essere un piccolo avanzamento, pare ci sia disponibilità a migliorare questo dato. Il contesto generale, Oscar, devo dire, anche molto, molto divertente, molto avvincente da seguire, perché la May si ritrova paradossalmente ad essere il fulcro più stabile di un governo che sta cascando a pezzi, esatto. In cui muoiono personaggi come una serie televisiva ormai, cioè dovrebbero metterlo su Netflix, per cui ogni settimana se ne va via uno. L'ultimo caso è stato quello della ministra per gli aiuti internazionali Priti Patel, una Brexiter, va notato, sostituita con un'altra Brexiter, però sicuramente con un profilo meno pugnace, anche meno efficace, no? Priti Patel comunque di origine indiana, ha una cioè sud-est asiatico, comunque aveva una sua voce, aveva una sua identità. Ma è credibile, perché il motivo formale che i nostri ascoltatori non sono tenuti a sapere per questo avvicendamento è che lei avrebbe avuto contatti durante una visita in Israele, e anche a prescindere dalla sua visita in Israele, con le autorità israeliane in merito a finanziamenti britannici, anche a programmi israeliani, all'insaputa del Premier. Ma è credibile? Beh, è incredibile ed è successo, è documentato, cioè questa donna è andata in vacanza in Israele e ha incontrato Netanyahu, cioè sono cose che ovviamente senza dirle al tuo capo sono abbastanza imbarazzanti. Poi questo diciamo aprirebbe un'altra microfrattura all'interno dei Tories sulla posizione rispetto ad Israele e rispetto al conflitto in Medio Oriente, quindi diciamo un posizionamento che risulta sempre un po' imbarazzante in giorni di dichiarazione bicentenario della dichiarazione Balfour, insomma. Sicuramente mentre invece il ministro della difesa se n'era andato via, perché insomma il ministro della difesa invece aveva toccato un ginocchio e forse molto più di un ginocchio, e poi aveva fatto queste avance addirittura alla leader della Camera, Andrea Letson, che è una signora grande e bella pugnace, agguerrita di suo, però insomma pare che questa cosa nascondesse poi tutta una serie di avance che andavano oltre il ginocchio e che insomma hanno purtroppo radici in una cultura che a Westminster esiste, cioè non è una caccia alle streghe, che però trova anche spazio diciamo in una cultura reale. Oggi leggevo un'intervista con la barista di Westminster che dice: ma quante me ne sono capitate a me, non sapete. Quindi insomma sicuramente questa degli scandali sessuali ha anche perché lì c'è tutta la lista di decine di parlamentari Tories le cui assistenti hanno messo nero su bianco insomma comportamenti impropri a bizzeffe. Esatto, ma non solo, cioè, non solo gli assistenti, pare che addirittura questa lista si vocifera sia stata in qualche modo promossa e messa a punto da quello che poi è diventato ministro della difesa, no? Gavin Williamson, che era il whip, che era diciamo il capogruppo dei Tories, sì. E tutti questi scandalucci venivano un pochino usati anche per fare qualche pressione, no, vota così, fai così, non ti allineati con quello che facciamo noi. Quindi è una situazione in cui sta venendo giù praticamente tutto. Però secondo me, Oscar, ci sono due cose interessanti oggi, che sono da una parte quello che ha detto uno degli autori dell'articolo 50, la convenzione, Lord Kerr, che ha detto: guardate che è reversibile, cioè la lettera che Theresa May ha mandato nel 2017 è reversibile, se la gente cambia idea ha diritto di cambiare idea. E questo diciamo è stato un contributo tecnico, però finalmente fatto in maniera chiara e ficcante, come a dire: non vi fate raccontare dai tabloid che ormai siamo su questa strada e non la possiamo più percorrere. No, ma è anche una risposta diciamo molto più fondata alla volontà di reiterare la data nel repeat bill da parte della Premier britannica, cioè il punto è, sì, lei dice che in ogni caso si esce, ma se avvengono manifestazioni concrete di una volontà diversa non è vero che in ogni caso si esce. Esatto, e poi soprattutto c'è l'altra cosa che sicuramente non ti è sfuggita, cioè che comunque un vecchio volpone come Gordon Brown ha detto: guardate che si arriverà a un punto di crisi, cioè si arriverà a un momento in cui anche i Brexiter si renderanno conto che questo gioco non vale più la candela. Quindi aspettiamocela per l'estate prossima e insomma stiamo accorti, perché comunque questo gioco si sta facendo estremamente solo che a quel punto ipotizziamo che nell'estate prossima diventi sempre più ragionevolmente concreta l'ipotesi del fatto che si potrebbe arrivare a marzo 2019 senza intese commerciali, e che a quel punto per il Regno Unito, come instancabilmente la Confindustria britannica ogni settimana ripete con toni sempre più allarmati alla May, il Regno Unito si troverebbe esposto nella sua economia a rischi molto molto molto rilevanti. Ma a quel punto cosa può avvenire per richiedere ai britannici di esprimersi? Un nuovo referendum? Perché le elezioni politiche lei non può convocarle perché le vince Corbyn, e quindi deve fare un altro referendum. Ti vedi la May che convoca un altro referendum? Allora, secondo me non bisogna fare l'errore che si è fatto finora, cioè quello che è in corso è un grande cambiamento di opinione pubblica, nel senso è un processo, veramente prima usavo l'immagine della Via Crucis perché in realtà c'è proprio un cambiamento, insomma adesso i sondaggi, leggevo oggi, dicono comunque sia che il 45-47% dei britannici inizia a pensare che l'esito del referendum sia stato un errore. Quindi secondo me bisogna un po' vedere che cosa succede, nel senso dalla parte l'economia che fa sicuramente il suo ruolo con cioè come andranno le cose, poi ci sono allarmi in vari settori, no? Mancano i medici, mancano le infermiere. Allo stato attuale secondo me stiamo vedendo un po' un momento di un giro di boa, nel senso per la prima volta appunto voci come quella di Lord Kerr, voci come quella di Gordon Brown cominciano ad essere più esplicite, però chiaramente sarà il tempo a dare ragione e anche secondo me a indicare quella che sarà la soluzione futura. Potrebbero essere nuove elezioni, questo governo come sappiamo non ha la maggioranza, è anche molto curioso, cioè gli scandali sessuali in qualche modo sono stati interrotti da questa storia di Priti Patel e di Israele, però se vanno avanti, se questo filone prosegue, cioè potrebbero doverci essere a un certo punto delle elezioni suppletive, potrebbe cambiare lo scenario, no? Quindi voglio dire, alla fine la May paradossalmente sta instabile lei, però sta beneficiando di una situazione in cui l'instabilità è ancora maggiore e soprattutto si sta facendo carico di attraversare questa fase in cui appunto certezze non ce ne sono, però ci sono obiettivi, perché comunque il suicidio nazionale ovviamente in qualche modo va evitato. Quindi io quello che sto dicendo è che non è che la situazione sta cambiando adesso, però ci sono effettivamente molti elementi che possono far pensare che nel prossimo anno vedremo uno scenario molto cambiato. Addirittura appunto oggi Gordon Brown diceva non è ancora il momento per un secondo referendum, però pure quello chissà potrebbe essere una soluzione. Non lo so, io immagino le elezioni a un certo punto, però appunto non voglio neanche fare vaticini o usare palla di vetro, dico soltanto che è una situazione estremamente fluida da cui la May, devo dire, con carattere, con nervo, insomma, sta uscendo bene. Sta uscendo comunque meno peggio di quello che i suoi avversari pensavano. Ok, ci hai dato un'opinione che sicuramente sui giornali italiani non credo sarà quella prevalente, che se la sta aggiustando abbastanza bene. Tenete conto, cari ascoltatori, che in caso di elezioni Corbyn direbbe bisogna ricominciare tutto da capo, ma per l'Unione Europea e per il Trattato non è così. Quindi non si ricomincerebbe da capo affatto, ci sarebbe sempre la scadenza entro la quale il Regno Unito deve dire confermiamo che usciamo a marzo 2019 oppure abbiamo cambiato idea, quindi questo introdurrebbe un'ulteriore, diciamo così, variante complicata nella faccenda, anche perché Corbyn, correggimi se sbaglio Cristina, fino a questo momento è ben lungi dal dire che lui è per il Remain. Ma assolutamente, ma infatti quello che dico è che a parte diciamo anche questo sostegno nei confronti di Corbyn è tutto da vedere, è vero che il Labour è avanti nei sondaggi, però insomma poi bisogna vedere anche la resa dei conti se la gente vota un leader come Corbyn. Io non sono così sicura che poi gli inglesi mettendo mano nel portafoglio diciamo siano così palpitanti nello scegliere un rinazionalizzatore dell'economia, va bene. Esatto, quello che intendevo dire non è che la May sta andando benissimo, però il suo ruolo da amministratrice fallimentare tutto sommato lo sta facendo con più... Amministratrice fallimentare, se ti sentono al numero 10 Downing Street ti levano la possibilità di fare il tuo mestiere. No, sto scherzando ovviamente, ma grazie. Ma penso che siano d'accordo con me. Sì, ma purtroppo temo anche io, almeno dai miei amici che sento nel partito Tory, io sento solo di cose di gente che dice mio Dio, c'è un carissimo mio amico che è parlamentare che dice siamo diventati peggio dell'Italia, io dico no, beh, non ti rassegnare, c'è ancora un tratto di strada da percorrere. Lo dico ironicamente, cari ascoltatori, non sto mancando di rispetto alla nostra sacra patria che vi è cara, dico solo che a Londra si rendono conto in tantissimi del fatto che non ci avrebbe scommesso nessuno a un anno e mezzo al referendum di essere in questa condizione ridicolmente instabile, cioè di assenza totale di idee chiare, per così dire. Allora mi interessa capire da Gabriele Carrer se lui condivide questo giudizio un po' a sorpresa di Cristina Marconi, che dice sì sì, quello che volete, ma alla fine la May in questo grande quadro di casino generale della politica britannica, insomma, se la cava forse meno peggio di tanti altri. Che dice Gabriele Carrera? Ma sicuramente lei è una figura talmente opaca, talmente anche forse debole a livello di contenuti. Cioè, lei, quando le fu chiesto che cos'è il meismo, qual è la dottrina di Theresa May, lei disse: non esiste il meismo. Cioè, io non ho una teoria economica né una teoria sociale. L'abbiamo visto con le elezioni, con le sue giravolte. Prima c'era la shared society che è stata cancellata, prima ancora c'era un'idea di riscoprire quella broken society, cioè la città, la società rotta dal mondo liberale, per risolvere i problemi dei dimenticati. Poi anche quell'idea fu cancellata, fu spazzata via. La stessa cosa l'abbiamo visto sulla Brexit. Prima era una Brexit Miss Brexit, poi la Brexit blu, bianca e rossa, poi la clean Brexit. Cioè, le ha inventate di tutte per non darci un'idea di forse che cosa davvero passasse per la sua testa. Ma proprio questa sua plasmabilità, questo forse potremmo utilizzare addirittura pragmatismo, è ciò che la fa stare in piedi. Le ultime due sostituzioni al Ministero, come diceva prima Cristina, dicevi tu, quello della difesa e quello dello sviluppo internazionale, sono state due sostituzioni chirurgiche. Nel primo caso è uscito un sostenitore del Remain ed è entrato un sostenitore del Remain. Nel secondo invece è uscita una sostenitrice del Leave ed è entrata una sostenitrice del Leave. Cioè ha mantenuto la parità di opinione sulla Brexit, ha mantenuto la parità di genere anche. Cioè è un governo che sta in piedi con mosse chirurgiche, perché lei è convinta che tenendo questo equilibrio possa arrivare a qualcosa. La direzione è la conosciamo, è Brexit. E le strade per arrivare a Brexit. Io però ho questa impressione, adesso posso sbagliarmi, ma insomma, vista la complessità dell'impatto che in molte filiere dell'economia britannica avrà il tipo di intesa, semmai si arriverà a fare la trattativa sulle intese commerciali, lì o c'è un governo forte nelle relazioni con l'economia e in grado di avere una delega riconosciuta a trattare testi i cui esiti comunque si apprendono dopo che li hai trattati, oppure la sua qualità, quella che gli state riconoscendo, di essere un'amministratrice, insomma, più che una leader politica, entra in ombra, perché lì serve una leadership politica vera e rapporti profondi, radicati, di stima riconosciuta per esercitare una delega di quel tipo. Perché, cari ascoltatori, questo deve essere chiaro: gli effetti di quelle intese commerciali avranno, a seconda di come sono scritte, degli effetti profondissimi per anni e anni. Sul Regno Unito, naturalmente anche un po' sull'Europa, meno complessivamente sull'Europa, ma sul Regno Unito sì, e sono in ballo alcune questioni molto molto molto importanti, per essere chiari. Cioè non è un paese manifatturiero, però voglio dire, rispetto alla produzione automobilistica, che è comunque rilevante grazie alle scelte fatte ai tempi della Thatcher di non difendere le industrie britanniche che non reggevano il mercato, ma di aprire gli stabilimenti a grandi players dell'auto di tutto il mondo, a cominciare dai giapponesi, ecco, quelle robe lì entrano in Europa a che condizioni di dazi, e così via. Cioè, per ogni settore ci sarà un problema di questo tipo, senza parlare poi del fatto che riguarda la finanza, le banche e così via, che sono fondamentali ovviamente per l'economia britannica. Quindi vedremo. Io prendo atto di quello che dite, spero che i nostri ascoltatori abbiano capito che è un problema che resterà aperto e i cui contorni si definiranno meglio probabilmente nella prossima primavera, cioè ai tempi delle elezioni italiane, ai tempi in cui da gennaio diminuisce il QI, e quando sapremo, spero per l'epoca, quale sarà davvero il governo tedesco, perché non dimentichiamo che i tedeschi hanno votato, ma nel frattempo siamo ancora a caro amico per costituire davvero un governo in Germania, perché i governi in Germania di coalizione si fanno mettendosi d'accordo in centinaia di pagine su ogni singola cosa da fare, non a chiacchiere come in Italia, e però siamo ancora abbastanza indietro. Quello che è evidente è che però la coalizione sì sarà davvero tra CDU-CSU e i liberali FDP e con i verdi, però ancora su molte scelte, una delle quali è che atteggiamento tenere verso la Brexit, e il secondo è verso l'Italia, per essere chiari, e dipenderanno da come si scrivono gli accordi per il governo tedesco. Fino a questo momento i tedeschi hanno avuto un approccio, se posso dirla tutta, meno muscolare di quello che il delegato europeo alla trattativa Barnier mostra nelle sue uscite, che invece è molto più francese in questo, perché la Germania e la Merkel in persona hanno ripetutamente detto: c'è bisogno di un accordo sulla transizione e sull'entrata in vigore poi degli accordi definiti, di mutuo e reciproco contenimento del danno. Cioè la Merkel non è per infierire, mentre Barnier a volte, dovendo fare il poliziotto cattivo nella trattativa, e per infierisce anche la cosa di oggi, le due settimane sono condizioni un po', per così dire, ecco, un po' rigide visto il caos che regna a Londra. Allora, intanto grazie a Cristina Marconi, grazie a Gabriele Carrer, noi torniamo dopo le informazioni sulla borsa e un po' di pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. Eccoci qua, tornati in diretta, cari ascoltatori. Allora, spero di essere riuscito con Gabriele Carrera e Cristina Marconi a darvi un quadro della complessità di questa situazione britannica, che ci troveremo l'anno prossimo e avrà un impatto anche su di noi, vedrete. E naturalmente avete iniziato a pensare su come voterete le prossime elezioni in Italia, perché insomma, in qualche modo io temo, credo, anzi non temo, non si tratta di temerlo, ma credo che comunque i rapporti tra Italia e Europa, vedrete che in campagna elettorale saranno uno dei punti su cui tutti e tre i leader dei tre poli e i loro candidati premier, che non contano niente visto che non saranno quelli indicati, quelli a governare, come avrete capito, immagino, però il tema dei rapporti con l'Europa, deficit, debito e così via, vedrete che una campagna elettorale diventerà una gara tra tutti, a chi è più oltranzista a dire che non ci riconosciamo più nelle regole europee, il che significa che poi quando nasce il governo italiano sarà tutto da vedere, e poi quel governo come si mette nei confronti dell'Europa, ma questo c'è tempo per parlarne. Allora, io sto aspettando l'indicazione se c'è l'ospite che stavamo aspettando, ma non la stiamo trovando in questa cosa, però abbiamo ancora Gabriele Carrer collegato con noi. Ce l'abbiamo, Gabriele? No, allora in questo momento siamo privi naturalmente di ospiti, e vabbè, questo è il bello della diretta da questo punto di vista. E c'è? Ah, ecco, scusate. Allora, perché in questo prosieguo, sempre ancora dedicato al Regno Unito, la mia scelta è andata su una ascoltatrice che ci ha scritto in queste settimane, che vive e lavora nel Regno Unito, un'italiana, che mi è molto piaciuto per la storia della sua scelta personale, eccetera eccetera, e che ringrazio di essersi resa disponibile per questa testimonianza. Quindi una testimonianza senza pretese, non sta parlando a nome di nessun comitato di italiani nel Regno Unito, a Londra, eccetera, però rispetto all'analisi dei giornalisti, sentire anche direttamente le opinioni, le impressioni di chi è lì per lavoro, giovane ed è italiano, mi sono detto: aggiunge una voce fresca ai nostri intellettualismi di analisti, giornalisti. Quindi con noi, e grazie di essere resa disponibile, Valeria Farinella, come sta? Ah, salve, grazie. Non c'è nessun problema. Non faccia la timida, per così dire, si è resa disponibile e parli come se fosse di fronte ai suoi amici nel suo salotto. Non le chiedo quanti anni ha, perché una ragazza non va chiesto mai, ma è tra i 20 e i 30 o di poco sopra? 28. Ah, e quindi è tra i 20 e i 30, è giovanissima. E sta lì da quanto? Tre anni. Cosa fa? Sono una ritoccatrice. Ritocco foto per fotografi. Quindi insomma Photoshop, esatto. No, perché ritoccatrice sembra che sia un chirurga estetica, invece no, lo fa nella fiction e non lo fa nella realtà. Però è la fiction che poi dà l'idea di che cosa sia la realtà alla gente. Lei è un'alteratrice nella comunicazione, lo sa questo, sì? è un mestiere nobile, secondo me. È un mestiere nobilissimo. Perché? Naturalmente io non immaginavo, ma questa è colpa mia, che fosse un mestiere vero, nel senso che lei campa di questo. Sì, sì, assolutamente. Avendo quindi un'impostazione all'inizio che era artistica, grafica, tecnica, di che tipo? Ho studiato fotografia a Milano, allo IED, sì. L'Istituto Europeo del Design, e poi ho fatto qualche anno a fotografa, poi mi sono resa conto che era una vera noia essere una fotografa. E perché è andata e a Londra? Mi sono dedicata. È andata a Londra perché? Perché in Italia non andava bene, in Italia niente andava bene, avevo la mia partita IVA in Italia e non stava andando per il verso giusto, troppe cose da pagare in anticipo. Sì, figuri, conosco la materia. Le tasse subito, i clienti da pagarti quando vogliono, più o meno funziona così, ecco, esatto. Che non è esattamente la cosa in cui si campa bene. Mentre invece a Londra è riuscita subito o quanto ci ha messo prima di ingranare? Ma qualche mese, però il fatto di non dover pagare subito tutte quelle tasse che magari in Italia si devono pagare ha aiutato notevolmente, perché vivendo in modo frugale, cercando sempre di lavorare tanto e di fare contatti, poi alla fine ce l'ho fatta. Anche perché, cosa che in Italia non avrei potuto fare. Anche perché i prezzi di Londra rispetto al resto del Regno Unito sono notoriamente un po' impegnativi per uno che all'inizio stenta nel lavoro. Quindi frugale, sì, quello è vero. Frugale si intende, cari ascoltatori, se non avete l'idea, davvero frugale, perché bisogna essere disposti a sbattersi parecchio, ecco, che lì le cose costicchiano un po' care, a cominciare dagli affitti, a dire la verità. Però poi lì cioè, si è radicata, ha messo su famiglia. Sì, ho conosciuto mio marito qui a Londra su Tinder, taiwanese, e ci siamo sposati. Ecco, quindi voglio dire, è una scelta di radicamento che dà l'aria così, raccontata così, e senza dover aggiungere particolari privati che fanno parte della propria vita, ma di radicamento solido, cioè non di uno che dice tra due mesi me ne torno in Italia, o sbaglio? No, assolutamente, io vorrei rimanere qui finché lavoro, quantomeno finché lavoro. Mi piace qui, Londra è fantastica, non ci si può stufare di Londra, sono troppe cose da fare. Io sono molto d'accordo con lei, è la mia cosmopolis prediletta al mondo, molto più di New York, però questo è il mio gusto personale. Ma detto questo, lei e suo marito anche, tutta questa faccenda della Brexit, come la state vivendo? Da prima il referendum, alla sera il referendum, il casino che c'è dopo un anno e mezzo, che impatto ha? Ne parlate, non ne parlate? Lei non so se frequenta italiani o non italiani, ma insomma, nella comunità di chi sta lì, lei è comunque un'italiana, quindi è una cittadina dell'Unione Europea, si preoccupa oppure dice ma no, alla fine ho capito che, perché questo è vero che in questi mesi la rassicurazione verso i cittadini europei che lavorano lì, perché la Gran Bretagna si è resa conto di averne fottutamente bisogno, è quella di dire ma no, resterete qui, non c'è nessun problema, vi chiederemo un moduletto, ma in realtà ve ne occupate e preoccupate o no? Io personalmente sì, tantissime persone che conosco, perché conosco tantissimi immigrati, non solamente italiani, dicono semplicemente vabbè, problemi loro, ma non è vero, sono problemi nostri, noi abbiamo qui, siamo venuti qui, quindi dovremmo interessarcene. Onestamente ci siamo rimasti molto male all'indomani del referendum, io non me l'aspettavo questo risultato, poi ci siamo rimasti male, ci siamo sentiti rifiutati e via dicendo, ma sono tutte stupidaggini emotive, emozionali, diciamo. Ma lei ha constatato che è cambiato qualche cosa nel suo lavoro, nei rapporti con i britannici nel suo lavoro, nei rapporti con chi è cittadino britannico ma ha un'altra provenienza? È cambiato qualcosa? Cioè la gente si sente e si comporta davvero diversamente con voi oppure no? Ma in realtà Londra è un po' una bolla per questo, quindi non è facile dire, chiedere ad una londinese come una persona che abita a Londra, che è totalmente un altro mondo. Però sicuramente parto dal presupposto che, essendo italiana, non sono tra quelle persone, quegli immigrati che magari agli inglesi piacciono meno. Perché ci sono degli immigrati europei che agli inglesi piacciono meno. Gli est europei. Gli est europei, esattamente. O anche degli amici est europei, lo sanno benissimo loro di non essere, diciamo. Poi l'inglese è molto gentile, molto cordiale e non fa trapelare mai niente, però... È evidente. Ma la solidità del suo lavoro consta di che tipo di, se posso chiederglielo, contratti? Cioè è solo sul singolo lavoro o funziona con contratti di consulenza o di collaborazione mensili, semestrali, pluriennali? Come funziona? Semplicemente quando comincio a collaborare con un fotografo, poi di solito ci cominciamo a conoscere, magari lui mi dà un primo progetto, poi un secondo, poi ci abituiamo a lavorare insieme e poi continuiamo a lavorare, ma è proprio puramente freelance, cioè quando lui ha un progetto da proporre io ci lavoro su e dipende se c'è un cliente, se c'è il cliente è il magazine, il cliente è la persona che ha commissionato le foto e di conseguenza... Però ecco, non è cambiato nel suo rapporto in concreto di lavoro con i suoi committenti, non è cambiato nulla nel dopo referendum? No, assolutamente. Poi io ho un sacco di clienti che non sono in Inghilterra, non li ho mai visti in faccia, alcuni dei miei clienti. Abbiamo solo parlato via mail, tante persone sono anche in Europa. L'unica cosa che è cambiata è stata appunto crollando un po' il pound, essendo pagata in euro a volte. Questa cosa ha migliorato. Anche se artificialmente il suo potere d'acquisto. Ma ultima domanda, però non è vero perché l'inflazione cresce. Esattamente, brava, e questo fa bene a ricordarlo perché è una delle conseguenze che quelli che dicono che col Brexit nessuna conseguenza per l'economia britannica, invece in tutte le tesi di crescita sono state corrette verso il basso, anche quelle dell'Unione Europea ieri. Quindi, e poi bisognerà vedere se davvero si va a un'uscita senza deal commerciale, ragazzi, vedrete che cosa succede. Nel breve, io non sto parlando, nel medio-lungo può essere che poi tutto vada a posto, però nel breve c'è un prezzo rilevante eventualmente da pagare per i britannici. Però questo è un problema che si vede l'anno prossimo. Senta, ma lei si sente più cittadina italiana, ha un'identità cosmopolita ma di tipo europeo o addirittura ultraeuropea? Perché poi lei è andata, presa, fatto, insomma, si è incardinata, ha messo su famiglia con un asiatico, eccetera, eccetera. Dovessero chiederle, dica sinceramente, tanto può farlo, gli ascoltatori non la conoscono, non c'è nessun tipo. Lei che cosa si sente? Cittadina siciliana, italiana, europea? In realtà mi sono riscoperta molto più italiana di quello che credessi, cioè arrivata qui pensavo sempre, dicevo, mi vergogno un po' di essere italiana, e poi invece adesso sono orgogliosa di essere italiana, però è difficile dire cosa mi sento, perché mi sento un po' europea, tanto europea, cioè il sogno europeo non cambierà per me, è sicuramente una cosa bellissima che i nostri padri hanno cercato di lasciare. Ma la famiglia taiwanese di suo marito la identifica come un'italiana, un'europea? Una britannica, come? Ah no, per loro sono solo bianca. Ah, ecco, non voglio chiamandola, punto e fine, non importa. Punto e fine. No, però questa è una bella, detta così è una bellissima cosa per fare capire come dall'altra parte del mondo ci vedono, non è che stanno lì a spaccare il capello in quattro, per così dire. No, assolutamente. Però sì, mi sento anche un po' asiatica oramai, perché ho cambiato tante cose nel mio modo di fare, anche un po' inglese. Io vorrei prendere il passaporto inglese tra 2 anni, proprio prima della Brexit. Oh. Sono 5 anni che posso prendere. Io da minoritario cosmopolita mi piace questa cosa, però io penso che lei abbia... No, lei deve aver creato inevitabilmente, col caratterino che mi pare di capire da quanto ha scritto, che ha dei problemi alla famiglia di suo marito. Questi avranno pensato, ma questa prende quest'italiana fuori di testa, ma mamma mia. Povera mamma di suo marito. Vabbè, comunque, al di là di questo, senta, Valeria, io la ringrazio per questa fresca testimonianza che ci ha dato e che è molto apprezzata dai nostri ascoltatori, ai quali però non posso dare l'indirizzo. Uno chiede Photoshop, ma può essere che mi interessi questa roba. Conosco i nostri ascoltatori da lontano, mi pare di capire che è un interesse diverso al Photoshop. No, non lo assecondo. Ma detto questo, continueremo a sentirci, perché vedrà che noi gli chiederemo opinioni anche nello sviluppo di questa faccenda nel prossimo futuro. Intanto buon lavoro, saluti al suo marito, e noi adesso abbiamo le informazioni sulle strade e poi torniamo per sapere invece in Catalogna cosa succede. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. La versione di Oscar. Allora, per capire, per avere una fotografia, diciamo così, dall'interno, comunque da un occhio che si identifica molto con le vicende che avvengono tra Spagna e Catalogna, una volta attivato l'articolo 155 della Costituzione, arrestati i membri della Generalitat e fissate d'imperio con il subentro all'esercizio dei poteri locali, visto che l'autonomia è sospesa, riattribuitisi da parte di Madrid, allora per capire che cosa sta avvenendo. È con noi la presidente dell'Associazione dei Catalani di Roma, che insegna anche lingua catalana all'Università La Sapienza, Isabel Turull. Grazie di essersi resa disponibile, buon pomeriggio. Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio. Come la vede lei della situazione che si è creata, purtroppo deludendo chiunque, come me, minoranza, sperava che prevalesse la ragione di una trattativa e invece si è andato, per così dire, a questo scontro durissimo con Madrid che carcera la gente. Lei come la vede? Io la vedo esattamente così, nel senso che i catalani hanno sempre sperato hanno sempre contato sul dialogo. E questo dialogo non c'è stato, per cui ci sono stato tutto un concatenamento di eventi sempre più diciamo cercando di aumentare la posta per cercare di comunque arrivare a poter dialogare con Madrid, ma la risposta è stata esattamente il contrario, con una chiusura totale e a questo punto anche con il fatto di mettere il governo in carcere. E soprattutto siamo rimasti molto delusi dall'Europa. Quando ho sentito la vostra intervistata che sta in Inghilterra, che le avete chiesto: ma lei si sente siciliana, sì, italiana, inglese, europea? E lei diceva soprattutto, dopo una serie di cose, ma soprattutto anche europea. I catalani si sentivano in questo momento, credo che sì, l'Europa non ha risposto, l'Europa ha detto c'è solo la Spagna. Si è dichiarata un trattato tra stati nazionali e non si occupa di quello che avviene sotto. Io sono dell'idea di un'Europa delle regioni che si deve sviluppare, a maggior ragione perché nella globalizzazione ci sono poteri che vanno verso l'alto e altri che vanno a bilanciarsi, devono essere esercitati il più possibile vicini alle autonomie. Però questa è la mia opinione personale. Ma cosa succede alle elezioni secondo lei? I voti del fronte dell'autonomia e dell'indipendentismo diminuiscono di fronte alla malaparata, oppure c'è un sostegno che a quel punto si estende di fronte alla reazione muscolare di Madrid? Quello non si può sapere fino al momento in cui arriveranno le elezioni. Tra l'altro lei ha detto: io insegno all'università, non sono un politico, non sono un giornalista. Certo. Io quello che posso vedere è che la gente è molto arrabbiata e quello che probabilmente potrebbe succedere che tutto rimarrà come prima. Bisogna anche tenere conto che a metà del governo sta in prigione, per cui anche considerare che queste sono delle elezioni normali è un po' complicato. Sì, sì, non è non molto c'è, chiaro. Non ci sono precedenti recenti nell'Europa occidentale di cose di questo genere, e a me fa tornare in mente che stati nazionali che ricorrono ai metodi che usavano dopo il congresso di Vienna nel 1815, quando c'erano i patrioti italiani nelle carceri dello Spielberg, a me mai chiesto poteva succedere, avrei detto ma naturalmente no, e invece la storia ci riserva anche questo. Allora risentiremo a seconda degli sviluppi futuri di nuovo la professoressa Isabel Turull, che ringrazio di essere state con noi, e intanto vi do appuntamento cari ascoltatori domani dalle 10 alle 12 ai Conti della Belva. Parleremo commissione di indagine delle banche, parleremo un anno di Trump e delle novità fiscali nella legge di bilancio. Domani dalle 10 alle 12 state con noi.